Si può parlare di ieri? C'è qualcuno? Ai Giulio. Ai, ma da Tanino. Cosa che sta Tanino? Ah, Tonino, sì. Ciao, Tonino. Che trovo se non si fa la faccia. Sì, vabbè, dai. Ha fatto puro. Ma da un fè andato per me. Cazzo, mi sono qui stai sottovalutato, non sono quelli vinti che... Fatto paragone. A che lo segnali hai visto me? Con che c'ho... Vabbè, un poco di più il duio, e dai. E vabbè. Vabbè, no. Claudio Fille è tanto muscolo. Non si sta niente a voce vera, a voce vera. Claudio Fille è molto da un bel, dunque. Ma chi è? Non ci passo una che io metto in corso. Metto il raggio, tutto il vento. Ui, ui, ui. E allora giù, dici nel tizio, qualche stazione pizza, veramente. No, ho già compreso, Tony, cosa hai detto? Sono bisogno oggi sono un poco sotto. Anzi, sono poi stavoltate. No, perché la verità, aspetta che ricordiamo io che lo addonalità, e che se no andiamo a ridabbaiere, avanti adesso, Tony. Ho detto, va, devo accendere e scaldare il padellino per la portante, se mi visto. Oh, assolutamente, ma dimmi la portante a Roby. Ma si può attrevito, adesso sto comandando un razzo. Cazzo, ma sei tutto? Una mitragliata nel culo. Ho detto, cazzona sì, Giulio. Non l'ho capito. Ma oggi lo intendi, no? Cazzona sì, capizzona mi. Cazzona B. E tu fai vedere italiano, beh. Ma fai vedere sassare sul quinto. Sì, le punte, no? Lo sai che sono le punte io. Allora, che ti schioppo sei d'Italia. Sì, appunto. Non ti schioppo, e allora... E vabbè, stavo guardando un po' di documenti, me li ho buttati a punto, adesso perché mi servono domani. Stavo dicendo, parliamo italiano, ogni tanto pure, se sei sono comprensi. Ti sei deciso a qualche stazione fissa, veramente? A fare stazione fissa? È che stazione più fissa di Italia è? Tu davi due, uno, veramente? Na giù, due, va giù, il Cobra 139 e poi l'altro è il Constat Valvolare. Sono civili, sono da tenere conservati. Vabbè, dai, così se su internet per fare giornale. Sono tutte cose che ho un sacco di anni, in tutto ne ho 12, no, ma nel corso di 48 anni praticamente, dal 1972 ad oggi, 48 anni e alcuni mesi di frequenza, va bene, si capita, ma che mi hai fatto mi dibarao di frequenza? Magari io mi ricordo settembre 74, la prima passaggio paventato, lui zitto, via le Sicilia. Poi quei tempi chi c'era? Cerotto, Altalena, Renata, Rosetta, poi Zampira, e pare Cerotto, Macallè. Mi sono ricordato bene, sì. Sì, c'erano tutti quelli. Poi c'era, Luisito, hai detto bene, Renato Sigma, che erano amici intimi con Luisito, erano sempre insieme, poi Macallè, Rosa Verde, poi tutti gli altri, Altalena, Corsaro, Giulli, Cardinale, Monforte, Venitali, Renata, e altri Venitali, Itria, te la metti di Itria? Sì, è che non la sono trombata, tutta la frequenza. Così si dice, Luce del Mattino, Intrepido, Marito e così via, e che più ne ha più ne metta. Uia, Itria, via, aspetta che fucina, io ho la lancia zagato rossa, tutto mi lamento. Bei tempi era, tempi da combattimento, perché in quel periodo c'era tanta di quella gente, perché se tu ti mettevi in un canale magari c'erano 20 persone e dovevi stare mezz'ora aspettando il tuo turno per parlare. Mi ricordo che c'era un ex arbitro di calcio, faceva questo, no? L'arbitro di calcio faceva, non mi ricordo come si chiama, sarà pure un mostro, chi lo sa. E quello quando attaccava a parlare, altro che Falcone, era, mini Falcone in vasia di passaggi lunghi, ma quello era il doppio di Falcone. Tu pensa che un giorno è stato più di tre quarti d'ora sempre parlando, sempre, fisso. Noi andavamo dal suo canale a ascoltare due minuti, due secondi e poi passavamo in un altro canale a fare questo. E lui sempre con lo stesso argomento, ma tre quarti d'ora di orgoglio, non sto scherzando, eh. Sì, ma allora quando hai citato giustamente Rosetta, che era la 50 di dottor Marino, che è un forte direttore dell'ACI, hai citato Renata che il marito entrava uranio, non so se l'hai conosciuto. E ti posso dire poi, sì, ma da lì anche la zia Villa San Francesco, veramente, ti aveva rotto veramente le palle, siccome ti aveva in antenna, lo trovo vicino a pura, mi ha rotto le palle, ha giocato la traina con un cavo su e le viraggi passata. Tante cose, veramente, lui da Ottavio, Platamora. Era Ottavio Platamona e Giovanni, aspetta quanto si chiamava Ghisù, che andavano sempre insieme, che ormai è morto anche lui da 3 o 4 anni fa. Giovanni Ciclone. Si trovavano insieme, facevano una passeggiata, si facevano con Platamona. E siccome c'era Rosa Verde che era stravagante, che era gusto, era micidiale, offendeva tutti, e questo Platamona lo voleva ammazzare a Rosa Verde, e Ciclone ha detto guai a te mi se fa una cosa del genere, perché se fa una cosa del genere ti denuncio subito, pacare dai. E vabbè, nonostante quello, poi lavorava, Rosa Verde lavorava a Porto Torres, se no alla Eni, che era la quota di Giammala, Eni, che sì. E l'agricoltura giusta, una volta l'ho vedo a Rosa Verde, tutto un fiato in faccia, tutto nero, aveva tutti e due gli occhi tumefatti, l'avevano dato una sussa, l'avevano picchiato forte. Perché? Perché c'era un altro CB che lavorava con lui, sempre nello stesso impianto, e l'hanno messo mano, lui e il figlio, tutti e due, l'hanno massacrato la rega, per carità. Stavo chiamando. Sì, mi ricordo anche di Sarabina, penso che te la ricordi. Tucca, Marmera, penso che ti la metti che nome. Dai, avanti, chi chiama Giulio? Hai detto K2? Ah, K2. Ok, ciao, ben sentito, avanti Giulio. Ok, ciao Cristian, me l'ha ascoltato. Sì, c'è Tucca. Poi c'era anche Fusibile, il padre di Tucca, poi c'era Olazero, Norton, Bruno Lagano, Aldo Perseo, e veniva di niente, questa carta niente che viene, bei tempi. Avanti Cristian K2, sì, riesco a tirarti fuori, oggi riesco a tirarti fuori, a differenza magari di qualche altre volte che non riuscivo a sentire bene quello che dicevi. Dove ti trovi in questo momento? Santiago 5 mi stai arrivando. A Sentino, la panoramica, che ho capito. Molto bene, dai, arrivi bene. Sì, per Sentino io già sono in una posizione abbastanza favorevole, per cui a differenza magari di Alghero un po' meno, ma per Sentino già vado bene. E lo stai dimostrando anche tu che stai arrivando, a differenza di quando sei magari nella zona di Budi eccetera, che arrivi un pochino basso e alla volta incomprensibile per me. Ti mando avanti Tonino Kawasaki, avanti Tonino, per Cristian K2 da Sentino. Ok Cristian, come mi ascolti lì a Sentino Cristian? 1, 2, 3, prova del radio, dai. Scusa, se te ne ho Santiago 5 adesso quanto arrivo? 1, 2, 3, prova. Sì credo. Ma vuol dire sono poco partito per Sentino da dove sono io adesso? Io non sono a Sassari comunque, sono in campagna. Sono in periferia. Sì. Comunque Giulio, mi ricordo che Stella Alpina era via Grazia Deledda, negozio di mercerie e saliva sulla destra. Sì, via Grazia Deledda, era vicino alla mia falegnameria, no? Io ero in via Lucio Cervi, Stella Alpina è morta già da anni, a Puglia, me lo ricordo benissimo, abitava su al monte, nella zona di Baggiara, abitava lì. La vedevo tutti i giorni, quando passavo, ad esempio quando andavo in banca, entravo a salutarla un attimo, entravo e uscivo, ciao Pina, ci sentiamo, sto andando a fare delle commissioni, vai Giulio, ciao, ci sentiamo, e così via. Sì, Salva Pina era una gran bella persona, vendeva mercerie. Poi c'era Giovanni, non mi ricordo come si chiama, che adesso non abita più a Sassari. Guarda che faceva, cosa faceva? Forse imbalsamava, non lo so, non me lo ricordo bene, imbalsamava gli animali, gli uccelli, eccetera, non me lo ricordo, però adesso non è più a Sassari, adesso è in paese da un bel po' di anni. Allora no, non lo ricordo, ma mi ricordo un Giovanni Modigliani, mi ricordo, faceva le cornici per le grazie della. Mi ricordo di Ostro, mi ricordo di Italo Lai, che si chiamava Ancora, non so se è ancora vivo, che abitava attraverso via Sicilia, quelle zone lì, via Pasidemo, no, esatto, era via per conto. Sì, ti ricordi di Ancora, oppure di Ostro? Sì, che lo ricordo, sì, infatti hai ragione, Giovanni Modigliani, quello che imbalsamava era vicino a lui, ed era Marianini, me lo ricordo, quello era Marianini, che poi faceva anche dell'orologiaio, e imbalsamava anche gli animali, tipo, che so io, uccelli di qualsiasi tipo. Sì, Giovanni Modigliani, è vero, faceva il corniciaio, ed era in via Gazzaredda, era un pochino più prima di Salva Alpina, sì, me lo ricordo benissimo, ma adesso è da alcuni anni, diversi anni già in paese, non mi ricordo quale paese è, ma non è molto distante la Sassari, saranno una settantina di chilometri più o meno. Va bene, dai, facciamo venire avanti a Cristian, avanti Cristian. K2 ci sei? No, si è stancato, è andato a farsi il bagno. vabbè, a sentiero si trova, è in libera uscita, è così, è Tonini, sì, me lo ricordo benissimo, Modigliani. Allora io nel 74 non entravo come Torino Kawasaki, sono entrato nel 75 come Torino Kawasaki, come nominativo. Prima entravo, lo so se ricordi, Tonino San Nicola, no, questo non me lo ricordo, la verità. E vabbè, perché tu abitavi in quella zona, dai, ho capito, e allora avevi preso quel nominativo. Poi c'è Vela 1, Vela 2, Vela 3, c'erano, tutti ti ricordi, Vela 1, quello che c'era di Via Lumberto, che faceva il lavagista, poi c'era Vela 3, quello l'infermiere, che è, tra l'altro è il padre di Antonio Riserva, oltretutto, che io ho conosciuto con piacere, mi dispiace non averlo più visto, ma purtroppo la vita è così. E cosa ci vuoi fare, Ottonini? E tanti nomi che ormai nemmeno me ne ricordo più, figurati. E Mario Mauro non c'è più, infatti. Sì, ve la tenevo, Giuseppe Pino era, lavorava, era fotografo, faceva fotografo, non lo doveva fare, però lui lavorava all'ospedale policlinico, quando lavorava. E so che non c'è più, me l'ho detto a poco, sono rimasto così, attaccato il muscolo e tu sei andato male, la verità. E vabbè, è cosa boutique. Ma tu anche tu hai fatto un bel po' di bianco pure, come l'ho fatto io? No, io non ho mai interrotto, mai. Sempre ci sono stato, anche quando la frequenza era completamente ferma, diciamo, per così dire, che poi in effetti ferma del tutto non c'è mai stata, perché c'ero sempre io, Emanuele Ponzio Pilato, poi c'era Gio Maria Figaro, Mario c'era, Mario Farina c'era sempre con noi, tutti i santissimi giorni parlavamo sempre, ma eravamo 4 o 5, non di più, mia allora. Poi ha incominciato di nuovo a ripopolarsi la frequenza e ed è andata avanti per un po' di tempo, poi c'è stata di nuovo una piccola interruzione, ma noi ce l'avamo sempre, sempre il solito gruppo, Gio Maria, io, Poncio Pilato, Mario Farina e qualche altro, che adesso non mi viene nemmeno in mente, e dunque e siamo sempre qua. Beh, Mario Farina era Mario Malz, ovviamente, se non ricordo. Ok Giulio, io sono posto per uscire con la 50 che devo andare a prendere la mia parallela. Andiamo un attimino a farci qualche giro da usciamo. Allora ci sentiamo, non so, dopo cena. Non c'è problema. Ok Giulio, comunque mi fa piacere ricordare i vecchi tempi degli anni 70, dai. Tanti anni sono passati, ma è bello raccontarlo, capito? A chi non lo racconta di robe più. Ok, Tony, beh certo, purtroppo che non c'è più non li può raccontare, e tante sono deceduti, tante persone sono decedute purtroppo. Mi ricordo Vento Giallo, ti ricordi quando faceva il giornale CB tutti i giorni verso le 2, Vento Giallo? Sì, e Stefano Serra, che la madre entrava come Elettra. Ti ricordi la madre Elettra? A voglia. Poi c'era Alfa Romeo, il figlio di Beniamino, il grande amatore, sempre da quella zona, no? Dove c'era Stefano, dove aveva il laboratorio fotografico, e lì in quella zona ci abitava Alfa Romeo, no? E cioè Beniamino. E ce ne sono passati. Io dovrei avere una specie di libro, dai, non libro effettivamente, un qualcosa dove avevo annotato tutti i nomi, avevo annotato, e non solo quello, avevo scritto tantissime cose, tante persone che parlavano male anche, che non sapevano esprimere certe parole, che li sbagliavano completamente, e le mettevo a di fianco. Ce lo cercano troppo, amici, lì ce ne sono centinaia di persone che adesso non mi vengono più in mente, però purtroppo è così, il tempo si sa. Poi non parliamo di cartoline, naggio un calascio pieno, un cassetto di Como pieno, gli hanno preso un bocco di là mandando QSL, e tutti in sughero la volevano, e capita, pare che vedano meri in questa cartolina in sughero, e quelli erano costosi allora, dunque tra cartolina e busta e francobollo e ballevarie, ecco che a un certo momento era anche una cifretta, dai. Sì, ma io guarda ne ho buttate due buste piene, e giustamente come dici tu, mandavo a fare il mio blog, io avevo la QSL personale addirittura, adesiva, poi con il sughero, quella della mia città, insomma era moneti adesivi anche o tricobranchi che mandavo, e francobollo eccetera eccetera, e poi basta dai, alla fine. E vabbè, cosa ci vuoi fare, sono tempi passati, comunque ci siamo divertiti, ma ce la sappiamo prendere, ora che ora ci passiamo, diciamo, gli altri anni che ci rimangono ancora, grazie a Dio speriamo 100 anni, ma con tranquillità, diciamo, no, come ai vecchi tempi, che era un bel casino, ma anche oggi, che oggi si trova, che in biciclotto è buona portante, ma speriamo che si calmerà anche lui. Sì. C'è solo anche CB che se non ricordo, ma piano piano già mi viene in mente sono persone che c'erano prima. Era un mese, faceva il gioco caccia tesoro, è diverso, dai. Non è come adesso. Ormai. Ma come. Vabbè, mi chiamano Giulio, dai, ci sentiamo, stai bene, a più tardi al limite, ci sentiamo. Grazie del questione. Grazie a te Tony. Attendi pure, ci sentiamo più tardi se coincide. Ok, ciao ciao Tony, è stato un piacere scambiare 4 chiacchiere con te. Ciao ciao Tony, alle prossime. Ciao ciao ciao, ciao Giulio, alle prossime, ciao. Chi è avanti? Avanti, chi è? C'è qualcuno sul 10? Chi è? Avanti. Avanti, chi è? Sì, vabbè. Avanti, chi è? Ciao. Chi è che ha salutato, che non ti ho riconosciuto? Non conosco il fischio mio, ma possibile. Cosa? Non conosco il mio fischio. C'aveva il volume è basso. Ti perdono, Natalia. Ma non c'è nessuno? No. Io ho acceso adesso e non ho sentito nessuno. Sono una sala, faccio la radio, sta iniziando a fare caldo, ci sono 24 gradi e 7 per l'esattezza. Ecco, questo microfono bene va, che è quello normale suo. È comprensibile, non è alta la radio, ma già comprensibile. E il microfono normale suo è... Ma non c'avevi anche l'altro microfono, MB più 4. Sì che ce l'ho. E perché stai usando questo allora? Sì, perché questo già viene bene a prenderlo, capito? L'altro è che viene male. Come l'altro? Con quello al tavolo non è sempre vero. No, stavo parlando del microfono normale, questo già va bene. E che microfono è questo? Non ho capito. Il suo, capito? Il microfono suo normale questo. Sì, ho capito, ma un microfono da palmo, l'MB più 4 invece da tavolo. Ti viene male a utilizzare quello da tavolo? No, negativo. No, non ti ho capito, spiega. Sto usando questo adesso. Ehi, ho capito, sto usando quello, mi metto, mi viene male a usarlo. Ah, ti viene male a prenderlo per usarlo. No, non ci siamo capiti. Non ci siamo capiti per niente. L'altro microfonino, quello piccolino piccolino, quello viene male a prenderlo anche in mano. Ho capito, e perché non usi quello grande? Spiegami perché non usi l'MB più 4 o più 5 che sia. Sì, adesso lo metto. Senti un po' di musica in sottofondo. Questo qui è l'altro, va? Cacca, la sua musica Natalia. Aspetta che lo abbasso, magari si sente troppo la musica del televisore, sennò mia moglie rompe le scatole, così bene va. Sì, va bene, sento la musica sotto. Ma molto si sente. Sì, giralo dalla parte opposta da dove proviene il suono della musica. Amplifica parecchio quel microfono. Bene va così. Oh, già spinge, dai, già va bene, molto meglio di prima. Almeno ti ascolto più forte. E adesso è a 3. Ah vabbè, ma cos'è, un 4 o un 5 questo? No, questo è 4. Ne ho due di questi, uno nuovo che è dentro la scatola e questo qui che è quello vecchio. Ehi, prova a metterlo al massimo, a vedere se distruggi parecchio. Guarda, così è al massimo. Non cambia niente, Natalia, è sempre uguale. Sei sicuro? Mi hanno detto che amplificava un bel di più. Quasi uguale, c'è poca differenza. Mettilo a metà come di prima. A metà ce l'avevi? No, a 3 ce l'avevo. Mi così ce l'avevo. Poco fa ce l'avevo così, a 3. Lasciare un po' più alto, mettilo di 3. Mettilo a 5, dai. Così è a 5. Lascialo così. Sento molto il rumore della stanza, del televisore o quello che è. Non c'è nessuno, Natalia? No, non ho sentito nessuno io. No, tesoro, ma... Saranno tutti in giro. No, oggi non sono uscito, magari dopo, più tardi. Ero un po' assonnato oggi, poi sono svegliato due volte stanotte, ero tutto scombussolato il sonno. Sono andato al bagno a fare i bisognini, poi mi sono di nuovo ricoricato, alle 7:30 ero di nuovo in piedi, cacchio. Non avevo sonno, anche se ero stanco. Non riesco a fare un sonno bello prolungato, è quello che mi dà un po' fastidio e ti dà un po' di sonnolenza durante la giornata. Se uno non dorme bene, poi... la giornata è un po' così. Lo so, è brutto, io ho quel difetto lì, il mio sonno non è riposante. Molte volte basta 10 minuti, mi sdraio, chiudo gli occhi e recupero le forze, però la notte bisogna dormire, purtroppo non ho un sonno prolungato e quello lì non fa bene alla salute. Ok, vediamo un pochettino se nel frattempo vuole entrare qualcuno, se no riprendere il mic di Natalino, lasciamo un secondo di bianco, avanti su 10. E tu perché sei così basso, tossicodipendente? Ah, davvero, cacchio, dalla quarantena stai uscendo o stai uscendo di senno? Già ti ascolto, già ti ascolto. È un cuocuomane questo Marcolino Condor. E dove sei in questo momento, Marco? Ah, là, già sei forte, 9 più 15 sei qua. Infatti ho detto, strano che a casa sua arrivi così basso, ho fatto scoppiare l'antenna con quel lineare da 2 kW. Proprio da 2 kW, Ehi, dai, già va bene, dai, già ti ascolto. Adesso fa una cosa, vai sotto di Dattalino, disturbalo, non farlo parlare con nessuno. E vieni, vieni, che c'è il fucile a pompa pronto. o se no vai sotto qualcuno che magari ti è antipatico, dici guarda come mi ascolti adesso, se il segnale è forte, vai sotto casa di qualcuno, oh, Marco l'hanno sequestrato la macchina. E io manco, manco questo monogatto mi posso mettere in macchina. Marco! Ehi, aspetta che siamo controllati, diciamo chi c'è dietro. Ehi, dai, tranquillo, dai, ci sentiamo quando sei in condizioni più favorevoli, dai. Natale, vai avanti. E io manco questo omologato, mi posso mettere in macchina, ragazzi. Tutti omologati e nessuno omologami. Ehi, non me lo posso mettere, perché sennò se vengono a controllarmi devo fargli vedere questo omologato. Quindi manco in macchina me lo posso mettere. Ma poi di questi apparati adesso tu usamento stanno cercando quei certificati CE, e come cazzo fai a trovare un certificato CE se è uscita da poco la legge? Quelli che c'hanno tutti dalla 48 quelli ce li buttano via. Eh sì, guarda che a me me l'hanno sequestrato uno che era omologato come l'Alan 48, però non era marcato CE, me l'hanno sequestrato ma ne butto la buccia. Magari era modificato, Natale, ma l'importante è che ci sia l'omologazione, c'è è per altre cose, per altri tipi di cose, perché tu l'importante è che rispetti la potenza dell'apparato, eccetera, c'è scritto omologazione, decreto, numero, eccetera, eccetera, quello c'è riferito al discorso dei, come si chiama, dei problemi elettrici. Asco, il mio non era né modificato né nulla, era una scatola di Cerini, mi sembra che si chiamava Albrecht, una cosa del genere. Di quelli piccolini, mio omologato era, eppure me l'hanno sequestrato perché non era marcato CE. Quelli che non sono marcato CE li trovano attaccati all'antenna e li sequestrano. Mi hanno sequestrato il rosmetro, mi volevano sequestrare l'alimentatore, meno male che c'è la targhetta CE nell'alimentatore, se no anche quello ci avrebbero fottuto. Non lo so, guarda Natale, pensavo una grande fesseria a questo discorso qua, cioè, perché gli alimentatori per forza omologati c'è, ne ha solo 50 anni, l'importante è l'alimentatore funziona, cosa c'entra con le emissioni e radio l'alimentatore, che discorsi sono, di dove stiamo parlando, dai, probabilmente per non farti altre cose, ha detto beh prendiamo questo e quell'altro. No, no, proprio perché c'ho il verbale, te lo faccio leggere, se ti trovano che non hai l'omologato c'è, te lo sequestrano. Una nebbia di un rosmetro a chi non era marcato c'è, infatti quello che ho io adesso, quello piccolino, è marcato c'è, mi hanno l'alimentatore è marcato c'è lo stesso, è per quello che non me l'hanno potuto prendere, me l'hanno tutto controllato, mi hanno portato l'analizzatore di spettro, hanno controllato se disturbavo la mia TV, perché io gli ho detto guardi la mia non la disturbo, ed è sul palo di quella che disturbo, proprio per farvi capire che il discorso dell'antenna riguarda quelli là, non me, capito? Infatti a quelli di fronte non li disturbo, come mai? Ma l'alimentatore cosa ti devono dire? Loro non devono, non stanno facendo, allora ti devo portare l'impianto elettrico di casa se c'hai il certificato di coso, come si chiama? Di agibilità dell'impianto elettrico, di conformità, non agibilità, che cacchio lasciamo perdere, che non c'entra niente, probabilmente non lo so cosa è successo, l'alimentatore loro ti devono solo controllare gli apparecchi radioelettrici eventualmente, l'alimentatore non c'entra niente, io posso avere anche una cabina telefonica come alimentatore, che cacchio c'entra il macchiato, cioè non è il loro compito controllare gli alimentatori, tu devi controllare che io c'avevo un apparato omologato e un apparecchio radioelettrico, parla, non è anche apparato, apparecchio radioelettrico di debole potenza riservato alle bande cittadine CB27, non so da quanto parte, in quei canali lì. Ok, l'alimentatore non c'entra assolutamente niente col discorso dell'esco o queste cose del genere. Se non è marcato c'è anche quello ti sequestrano, non ti preoccupare perché è attaccato al baracchino e di conseguenza all'antenna. Tutto quello che trovano attaccato all'antenna te lo sequestrano e ti mettono la multa che è 600 euro, per essere esatti. Ti faccio leggere il verbale, c'ho quello della polizia e quello di loro. Ma tu scusa un attimino, se io ho un apparato omologato, l'attacco all'alimentatore a me non mi può dire niente nessuno, se c'è una stazione con un baracchino modificato, con collineare, più c'era la levata al cuore, a quel punto è un altro discorso, però lei ce l'avevi collegato tua Natalia. Se io vengo da casa mia e trovano l'apparato omologato con l'alimentatore, a me niente, nessuno mi può dire niente. Certo, se c'è il lineare, poi c'è il ROSBA, tutta la stazione, io lo considero una stazione radioelettrica, per cui tutto quello che c'è collegato all'antenna, dall'amplificatore, il baracchino, microfono, alimentatore, non è il discorso di c'è o non c'è. Tu se c'è un apparecchio omologato, io posso avere l'alimentatore che mi piace, nessuno mi dice niente. Certo, se ho altre cose insieme in quella, nella linea del trasmettitore, al distributore, ma mi sono l'MB più 4 non me l'hanno sequestrato, non mi hanno sequestrato né l'MB più 4 perché è marcato CE né l'alimentatore, tutto quello che non era marcato CE te lo sequestro, tranquillo, e se tiro di qui, dromedini, non avevo niente io attaccato, c'avevo l'apparecchio omologato e boom. Avanti il break. Due pesi e due misure. Ciao, ciao Marco, ciao Roberto, ciao Natalino, buona serata a tutti. Avanti ancora Marco. Ciao Giulio, direzione Platamona. Ah no, qui è chiuso, non ci passare perché ho trasennato tutto, in questa strada non ci passare, fai il giro dalla parte di Alghero. Sta cazzando, farò passare che fa prima, chi vuoi parlare di Romano? Entrare, se no non ti fanno entrare. Fai pagare la gabella, così è. Allora, qui entra uno, o così sei da permesso, ma vuoi scherzare, ma lascia perdere. Vai, fai il giro, beh, passa da Budi Budi, guarda, passa dalla strada di Budi Budi, ma qua non ci passare. Vabbè, avanti. Ciao, ti stavo dicendo, farò passare da Usilo, adesso per andare a Castelsardo, io quando voglio fare fretta passo da Nulvi, faccio la Talanova di Usilo, Nulvi, e un quarto d'ora arrivo a Castelsardo, ma sai quanto tagli giù, un attimo arrivi. Così fai tu, fai bene, e io invece per andare a Platamona faccio il giro dell'Anglona. Vabbè, dai, comunque, tornando al discorso che avevate, in effetti è così come sta dicendo Natalino, c'è un decreto purtroppo fatto da persone imbecilli, perché per me sono solo imbecilli quelle persone che hanno fatto quel decreto, ed è così, l'ho letto anch'io, c'è un tanto di decreto, eccetera, eccetera, che deve essere marcato CE. Poi non capisco per quale motivo, cosa c'entra l'alimentatore e tante altre cose. Comunque, cosa vuoi che ti dica, Robè? Oh, yeah, buona Italia, forse che sia anche ignoranza di chi è andato a controllare, forse anche che sia quello, che cosa vuoi che ti dica? Vai, Natali. No, non era ignorante quello lì, no. Anzi, quello lì non lo infinocchiavi. Che quello lì che c'era non c'è più ed era il radioamatore quello che è venuto a controllare, quindi non era ignoranza di nessuno. L'MB più 4 per esempio, perché è marcato CE, non me l'hanno toccato, prima c'era la multa se si trovavano il microfono preamplificato, invece adesso non mi hanno messo niente multa per questo microfono, però è marcato CE e non me l'hanno toccato per quello, perché c'era questo attaccato che è quello vecchio ed è marcato CE. È marcato, non me l'hanno ducato baghissu, me l'hanno bigliato un rosmetro a chi non era marcato CE, l'alimentatore lo stesso non me l'hanno toccato perché era marcato CE, però se lo stavano per portare via, ha detto no, ma quello è marcato CE a giudizio, hanno abbaidato via la targhetta CE e me l'hanno lasciato, se no mi portavano via pure l'alimentatore, non solo l'altro, cioè c'è mia moglie testimone qua. Natali, le mutande marcate CE ce l'hai? Quelle sì. E allora tutti dire, l'importante è che quelle c'erano marcate CE. Secondo me ti spiego cosa è successo. Loro sono stati mandati, per cui devono fare per forza qualche verbalizzare qualcosa, una minima cosa devono fare, e per cui hanno fatto tutto. Perché se io ho un baracchino, loro parlano di stazione radioelettrica, non parlano di alimentatore. L'alimentatore lo posso anche costruire, un alimentatore, chi me lo vieta? Non lo so come è andato il discorso tuo. Io tempo fa avevo parlato con questi di Cagliari, del distretto di Cagliari, perché ho detto, ma se io ho un baracchino vecchio, un pace, li ho detto un Rolls, mi ha detto guarda c'è l'elenco di tutti i baracchini vecchi, di vecchia generazione, non omologati, nel senso non è, che non, come si chiama, che non c'era la targhetta di omologazione, però all'epoca erano omologati, perché tu per mettere in commercio molti baracchini li dovevi omologare. Mi ha detto guarda ti l'elenco, ci sono dei baracchini, ma della guerra, che fanno parte di quell'elenco lì, senza avere la marcatura c'è, non avere niente. Per cui questo discorso della marcatura c'è, secondo me te l'hanno tirati fuori proprio per dire che hanno fatto qualche cosa, se no, visto che sono stati mandati. No, la legge è uscita da poco, io avevo fatto la concessione prima che uscisse la legge, quindi non ne sapevo io di questa storia qui. E loro sono venuti quando era già la legge in vigore, quindi sono venuti e hanno esecutato tutto e anche la multa l'hanno messo. Ti faccio leggere il verbale, robe, io cavolate non te ne dico. E cosa dubbi va? Purtroppo è così, anzi ti dico che sono venuti un'altra volta pure, oltre quella volta che mi hanno sequestrato tutto, siccome non gli risultava a Cagliari che io avessi pagato la multa, sono venuti perché non era pagata la multa secondo loro, la giocava a Rugoso, Ruvolettina, giusto, e questa cosa guardi, si è fatto la fotografia e se ne sono andati. Natali, quello che stai dicendo tu ci credo benissimo, però loro dovevano per forza verbalizzare, dobbiamo fare che cosa, perché sennò, visto che sono stati mandati, c'è una denuncia, quello che hanno fatto a te, perché c'è stata una denuncia, una riverifica, se loro non vengono a romperti le scatole a casa, a meno che non fai delle cose gravi, eccetera, eccetera. Perché io ho un apparecchio della Inter, che nuovo generazione, è nuovo, eccetera, adesso non ho neanche guardato se c'è il marchio c'è dietro, più tardi me ne voglio togliere il gusto, però c'è l'apparecchio, c'è il coso, il cosettino, come si chiama, dell'omologazione, articolo di legge, eccetera, è stato fatto prima di questa legge qua, così ce lo butto via il baracchino, mi devo comprare tutti i baracchini nuovi, e mi sembra assurdo a me questa cosa. No, no, se non sono marcato c'è, non li puoi tenere, non è come ti di tu. Mi piacerebbe anche a me, infatti adesso mi devo cercare un ricevitore che sia marcato CE in modo che lo posso ottenere per le HF e me lo devo cercare così, perché se mi trovano qualcosa che non è marcato CE mi fottono. Infatti questo ricevitore che ho qui io della IAESU è marcato CE anche questo, e lo uso con i noghi proprio a chi non mi rubo un educa. E c'ho la licenza di SWL pure, anche se non è, se dice che non è più necessaria. No, diciamo puoi ascoltare tranquillamente senza bisogno di licenza. Ho visto però una legge proprio stamattina che la richiesta che hai fatto tu al distretto di Cagliari dura 10 anni, lo sapete questo? E che richiesta? Di una, come si chiama? Quando c'è una stazione di CB, di banda cittadina, che devi autorizzarti, che puoi pagare il canone ogni anno, eccetera, eccetera, dura 10 anni quella richiesta. Sì, ma basta rinnovare, pagare la solita quota e si rinnova automaticamente. No, ma è così, anch'io ho dei molti dubbi o robe, però purtroppo ho letto diversi forum, ho letto io anche a riguardo di questo marchio che ci vuole, perlomeno questo è l'ultimo decreto, è del risale già un paio d'anni fa, non è proprio recentissimo, è da di 2 o 3 anni fa. Purtroppo l'ho letto in diversi forum ed è così, cosa vuoi che ti dica? Poi se quelli hanno fatto perché volevano fare qualcosa, non lo so, il fatto sta che l'ho letto io e risulta, veramente questa dicitura così, che è necessario che sia così. Praticamente tutto quello che abbiamo dobbiamo buttare, in poche parole, non è più regolare, ecco qual è il discorso, Robè. Guarda, io domani è stato per portare la macchina, il fratello, siamo molto amici di quella persona che è andata in pensione, che conosce molto bene Natalino, e gli faccio proprio la richiesta, gli dico, digli a tuo fratello, tanto è un radioamatore, non è uno stupido quella persona, molto competente, è andata in pensione da poco, e gli chiedo questa domanda qua, se sono obbligato ad avere la marcatura CE in un apparecchio omologato? Io ci credo poco, secondo me, come ho detto io Natali, loro sono stati mandati, è come quando ti ferma la polizia, e vabbè un verbalino, ormai ti abbiamo fermato, ti devo mettere che c'avevi le ruote sgonfie, consumate, o il fanalino rotto, devo mettere qualcosa, e succede troppo spesso. Loro sono stati mandati, per cui una volta che sono mandati, loro trovano anche una cuffia, una cagatina sopra, devono per forza fare la contravvenzione. Insomma, che cosa siete andati a fare? Ci rimettono loro la reputazione. Qui ti rispondo io. Ciao Clara, avanti dai. Ciao Giulio, ciao Antalino. Il regolamento, la norma c'è, è stata fatta, è stata messa in vigore per le apparecchiature elettriche, ok? Per la sicurezza, quindi tu non puoi avere un apparecchio che non sia norma c'è, perché loro ritengono che sia, può essere pericoloso, capito? Può essere pericoloso perché è roba elettrica, sono apparecchiature elettriche attaccate alla corrente, quindi come è in vigore, la norma c'è e ci vuole il certificato di conformità per l'impianto elettrico, deve avere anche la radio, norma c'è per essere conforme alla legge che è in vigore, basta, non è che sia, e così ti risponde quello che tu devi andare a chiedere, perché io gli ho fatto la domanda proprio nell'ultima, in una delle ultime riunioni che è stata fatta, prima che andasse via dal servizio, quindi, capito? E così mi ha risposto, così ti sto rispondendo a te. Non ha niente a che fare con le radio, però devono essere marcate c'è, perché la legge appunto dice che tutte le apparecchiature elettriche collegate alla corrente in uso elettrico devono essere norma c'è, devono avere la conformità di legge per appunto per la pericolosità degli incendi, delle cose, capito? Sì, non lo metto in mucchio per le apparecchiature nuove, sono pienamente d'accordo, però se stavo parlando che io ho un baracchino di 30 anni fa con l'omologazione del coso, non mi possono costringere a cambiarmi il baracchino, perché adesso la normativa per le nuove apparecchiature dice che devono essere tutte marchiate c'è. Cioè, quello che stai dicendo tu è chiarissimo, ci vuole il certificato di conformità dell'impianto lì, però non è la competenza di questi di controllarti l'alimentatore, probabilmente loro considerano una stazione di coso radioelettrica, c'era collegata anche all'alimentatore a quel baracchino che non poteva andare. Per quel motivo lì che gli hanno portato via il coso, c'era il rosmetto, il baracchino e il coso, l'alimentatore, magari se c'era anche il lineare portavano via anche il lineare, anche se era attaccato, però era tutto collegato. Secondo me la logica è quella lì, io non posso costringermi a me a cambiarmi un baracchino, un ARA 48 omologato o il multicom della Inter, che sono tutti e due omologati, perché non è marcato c'è, allora non è obbligatoria 10 anni fa l'omologazione c'è. Stiamo parlando di apparecchi di nuova produzione messi sul mercato adesso. Oh, scusa un attimo, comunque. Io ho letto anche, aspetta un attimino, c'è anche da tenere in considerazione questo particolare, tu non è che sei proprio obbligatissimo ad eliminare quello che hai, però se te lo trovano appunto attaccato, come stava dicendo Natalino, allora sei passibile di multa. Allora, tu hai un'apparecchiatura di vecchissima data, su quello puoi richiedere il collaudo e il marchio, per cui quello lo puoi fare, però se non ce l'hai e non hai fatto nessuna richiesta sei sempre passibile di contravvenzione. Io ho letto anche questo. Certificato di conformità devi chiedere. È tutto ormai, è deve essere marcato, tutto quanto ci deve essere il marchio, c'è anche le televisioni, lavatrici, tutto, qualsiasi cosa. Tu mi dirai, ma allora un televisore me lo possono sequestrare, perché sarebbe il colmo, ragazzi, che venissero qui per dire che ti prendessero il televisore perché non c'è il marchio acceso, perché magari ce l'ho 10 anni, 15 anni, è una cosa assurda. Purtroppo ci sono queste leggi così assurde, perché per me questa qui è una legge da imbecilli, nel vero senso della parola. Vai. Comunque il multicom mio è marchiato c'è stato un break, credo che sia Giovanni, avanti Giovanni. Aspetta un attimo Giovanni. Oh Robè, allora io ti dico, il rosmetro che mi dà nel biliardo cucciava più di un baracchino, perché era un daiba di quelli grandi e costava 150 euro. A me mi hanno fatto danno. E Claudio te lo può dire. Quel rosmetto che c'avevo io era uno di quei daiba grossi, e siccome non era marcato c'è, mi danno di quel traddu. Ma io non dubito quello, Natale, io non sto dicendo quello, però secondo me hanno fatto una... Vabbè, tu ci avevi collegato tutto, il rosmetto ce l'avevi tu sicuramente attaccato, però se io ce l'ho dentro l'armadio, ho conservato, cosa mi porti via? Io posso detenere quello che vuoi. Certo, se è attaccato al baracchino e all'antenna, a quel punto dicono, ah, fermo a tutto, questo apparecchio non va bene. Però io adesso c'è un'ala 48, a me mi avevano detto che ci sono degli elenchi nuovi dove fanno figurare tutti i baracchini, anche di vecchia generazione, però conformi al coso, ti guardi l'elenco, secondo me, come ho detto io, hanno voluto metterti una minima contravvenzione perché sono stati mandati, se no magari ti avrebbero detto, oh, togliti quel coso, fammi sparire quello, la prossima volta non te lo trovo più, come succede a te, sono stati mandati, c'è una cosa, visto che mi detto, è venuto oltre che l'escopo, è venuta anche la polizia, per cui è una cosa molto molto particolare. No, senza la polizia non possono entrare, prima entra la polizia e poi entrano loro, loro sono dei semplici tecnici, capito? Se non per la polizia non può andare. Vabbè, ma loro quando devono entrare entrano con la polizia e non ti puoi rifiutare, lo sai, se hanno un mandato per entrare non puoi fare niente, ti fanno entrare, se no ti sigillano la porta, dice tu da questo momento non devi più entrare, non toccare più niente e veniamo noi col coso, col mandato. È già successo, te lo dico per altre cose che è capitato a me personalmente, ed è meglio sempre farli entrare, se no ti fanno un bel male. Ok, facciamo rientrare a Giovanni Bracco, che mi sembra che sia lui, avanti. Ok, fai ragione, Robè. Comunque, diciamo, per entrare a casa tua ci vuole sempre l'autorizzazione del magistrato, sia ben chiaro, cioè non possono entrare così abusivamente, ci deve essere un mandato, tanto di firma di un magistrato, se non possono entrare. Voi, se uno vuole entrare per non passare ulteriori guai, è un altro paio di maniche. Volevo dire soltanto se c'è Fabio, perché ci dobbiamo vedere, dice, ci faceva sentire questo, me ne so, boh. Diciamo, se c'è Fabio, fanno sapere, perché poi faccio quel rei che si è, perché ho altra roba da fare, eventualmente rimango in ascolto, poi rientro. Io Fabio l'ho sentito stamattina all'ora di pranzo, poco prima dell'una, e boh, dice che forse stasera rientra. Ok, vediamo, vabbè, riprendi tu Claudio e poi guarda se c'è ancora Marco che era in giro in macchina, se ci ascolta, avanti. Ciao Giovanni, buonasera, ben ascoltato. Vabbè, Giulio ti ha detto una cosa, però tu continui a non capire. Deve essere tutto a norma, cioè io lavoro in cantiere, sono responsabile di un cantiere, ok? Capito? Sono io il responsabile di un cantiere di Olbia e anche di quello di Sassa e di quello. Due settimane fa, cioè cosa sto dicendo? Quando è che siamo partiti? Cosa sto dicendo? La settimana scorsa. Stavano iniziando a sistemare tutta l'attrezzatura per poter iniziare il cantiere il lunedì. Questo è successo di venerdì, va bene? Sono arrivati, perché era un Olbia, lo sapevo già da settimo, lo siamo molto amici dal sindaco. Quindi sono arrivati, è arrivato l'ispettorato del lavoro. Stiamo parlando di cantiere, stiamo parlando di lavoro e non stiamo parlando di radio, stiamo parlando di lavoro. È arrivato l'ispettorato del lavoro, siccome c'è qua, non sono io un altro responsabile lì di Olbia, ok, però mi ha chiamato. Quindi è successo che mentre preparavano tutta l'attrezzatura per poter iniziare a lavorare di lunedì, hanno voluto vedere l'attrezzatura. È stato che in un gruppo elettrogeno che noi abbiamo, perché non si sa mai, nella zona in cui siamo manca spesso la luce e quindi loro hanno necessità di attaccare le mole eccetera, perché stanno tagliando tubi a parte con i cannelli eccetera, però serve anche la mola, questo gruppo elettrogeno non era norma, c'è, dico proprio, è capitato un argomento, te lo sto dicendo, non era norma, c'è. L'ispettore gli ha chiesto al capo cantiere se aveva per caso la certificazione di conformità, cioè, e lui ha risposto non lo so, devo chiamare il geometra responsabile. Mi ha chiamato, e purtroppo è andata bene, però io solo al telefono, perché ho detto se vuole vengo ad Olbia, ma glielo sto dicendo al telefono, quel gruppo elettrogeno ce l'hanno prestato per iniziare i lavori, noi l'abbiamo ordinato, il nostro è a norma, c'è, però ancora non è arrivato perché sappiamo la situazione che c'è del Covid-19. Mi sono salvato perché Covid-19, se non ci fosse stato niente in tutto ciò, ok, e io lunedì aprivo il cantiere con un gruppo elettrogeno non a norma CEE, le stavano mettendo i sigilli, ti sto parlando di un gruppo elettrogeno di circa 10.000 euro, ok, mettevano i sigilli, non lo potevi usare. E infatti mi ha detto, siamo matti, mi raccomando, all'apertura del cantiere guardi che torniamo, perché vogliamo vedere tutta l'attrezzatura, l'ho controllato i compressori, l'ho controllato le bombe, l'ho controllato tutti gli impianti di lavoro e sono tutti a norma CEE. L'unica cosa era questo, ci siamo salvati perché purtroppo l'ordine era già stato fatto, ma non ce l'hanno spedito perché c'era questo cacchio di cose. Il gruppo elettrogeno è arrivato, mi sembra, martedì o mercoledì, capito? Norma CEE, altrimenti lo piombavano, quindi non parliamo di radio, parliamo in generale, come ti ha detto Giulio, tutto quello che è in funzione alle officine, alle aziende, ai supermercati, ai bar, deve essere tutto con conformità CEE, come tutte le cose devono essere ISO 9001-9002, vabbè, la legge è questa, non si scappa. Buffonendi, sì. Te lo ricordi quando abbiamo fatto quel lavoro in via Milano, Claudio? Io già me lo ricordo, sì. Ogni giorno c'era l'ingegnere della sicurezza, t'abbaidava pure a vedere come te ne vissuto. A me mi ha controllato a vedere se avevo i miei ricordi della cartellonistica del coso e il camion lo volevo mettere lì dentro, ora non potevo essere. Non lo vedevo, veniva ogni giorno l'ingegnere della sicurezza, che mi aveva cassato due volte, se no. Riprendo io. Allora già, poi claro, l'hai detto tu, chiaramente d'accordo, anche le mascherine devono essere per forza omologate, mica vado a prendere quelle cinesi, che anche se magari c'è scritto la marchiatura c'è, devo utilizzare quel tipo di mascherina per quel tipo di operazione che uso, c'è pienamente d'accordo, non ho niente da recepire quello che hai detto tu, tutto giusto, deve avere tutte le autorizzazioni eccetera eccetera, però qua stiamo parlando di un baracchino che è stato omologato per dire nel 2008, c'è scritto omologazione, decreto, numero eccetera eccetera, nel 2008 non era ancora la normativa della CEE, nel senso che tutte le apparecchiature di nuova costruzione devono avere omologazione, c'è anche la macchina deve essere omologata a CEE, l'autoradio che c'è in macchina, tutto deve essere omologato a CEE, ormai non esiste più, le regole sono tutte uniformi, però se io ho un ANA 48 che entro i parametri di legge di tutte le disturbi eccetera eccetera, così mi devo già un baracchino, perché adesso è uscito il modello 2020 che c'ha dietro la targhetta a CEE, che è preciso identico a quello, mi sembra un'assurdità a me quello. No, Robè, non è un'assurdità non continuare a fare l'ognurri, non è un'assurdità, è legge, te l'ha già detto Giulio, non sei obbligato a cambiarlo, non sei obbligato, sei obbligato però a chiedere l'intervento tecnico per darti la conformità, ok? Loro ti rilasciano un foglio di conformità, cioè, perché secondo loro quella radio va bene, se tu non hai quel foglio, oppure non hai la radio a norma CEE, te la portano via, hai poco da discutere, è legge, e non ci sono altre alternative. Tu non vuoi cambiarla la radio, perfetto, ti avvicini dove sai, no? Dove sappiamo tutti, e chiedi, io ho una radio omologata, me la porti perché la vogliono vedere, se no vengono a controllare. E potrei chiedere l'intervento, il controllo tecnico per la conformità, e loro ti dicono se è fattibile o meno, perché so che non le stanno facendo neanche, capito? Però quella è legge, se non c'è la targhetta c'è, non omologazione, c'è, la portano via. Questo per quanto riguarda, l'ho già spiegato, la parte 27CB per un radioamatore a livello sperimentale, la norma c'è, non esiste, ok? In fase sperimentale, punto. Per il resto bisogna avere tutto a norma CEE. Guarda, io ho rischiato grosso, se mi piombavano qualcosa che non era neanche mio, nostro, della società, ce l'hanno prestato per iniziare i lavori, io andavo nei casini, quell'affare, se me lo sequestravano costa più di 10.000 euro, infatti mio cognato è diventato bianco, capito? Perché deve essere a norma, c'è, infatti quello che è arrivato è a norma, c'è, e costa una barca di soldi, circa 18.000 euro costa un gruppo elettrogeno a norma, c'è, di ultima generazione. Quindi lasciamo perdere le radio, tutto deve essere a norma, c'è, va bene, norma c'è. Io ho la conformità, quando sono morti i miei suoceri, io sono sceso qua al secondo piano dal nono, che l'impianto sicuramente era un impianto vecchio fatto nel 1985, io mi sono dovuto spostare di casa perché ho dovuto rifare tutto l'impianto elettrico nuovo, tutto a norma c'è, e la ditta che me l'ha fatto mi ha rilasciato il certificato di conformità c'è, hai capito? Senza quello, se tu vai a vendere, non puoi vendere manco la casa. Vai Giulio. Se non vi credi, Edu, aspetta un attimo, giù. Ti stavo dicendo, io ho il certificato di conformità per quel baracchino, per questo qui. Oltre alla targhetta c'è anche il certificato di conformità, se no non lo vuoi di me. Sì, sì, è così, in effetti è vero, è così. Purtroppo, l'omologazione di prima è decaduta già da alcuni anni, 2 o 3 anni se ricordo bene, e purtroppo adesso è così, non sono più in regola, e ripeto, lo puoi tenere ma non lo puoi usare, se lo puoi usare devi farlo certificare, tutto lì, perché ci sono delle aziende che fanno la certificazione con tanto di rilascio di conformità. Ecco com'è il discorso, è vero, tornando al discorso anche di quello che ha detto Claudio, se io voglio vendermi la casa, devo presentare dal notaio, e non è una cosa così da stupidi, ma bensì una cosa serissima, la conformità dell'impianto elettrico anche, perché se no non mi accetta la vendita. È vero, è così, purtroppo è così, cosa ci vuoi fare? Le leggi sono cambiate, noi magari certe cose non le sappiamo perché siamo rimasti un po' indietro con le informazioni eccetera, però tu mi dirai, ma è una legge assurda, parlando di un baracchino, sì, anch'io sono d'accordo con te, è una legge assurda.